Questi sono, con le loro indicazioni genealogiche, i capi famiglia che salirono con me a Babilonia durante il regno del re Artaserse. Dei figli di Pincas, Gersom. Dei figli di Itamar, Daniele. Dei figli di Davide, Cattus, figlio di Secania. Dei figli di Paros, Zaccaria. Con lui furono registrati 150 maschi. Dei figli di Pacat Moab, Elioenai, figlio di Zerachia, e con lui 200 maschi. Dei figli di Zattu, Secania, figlio di Acaziel, e con lui 300 maschi. Dei figli di Adin, Ebed, figlio di Jonata, e con lui 50 maschi. Dei figli di Elam, Isaia, figlio di Atalia, e con lui 70 maschi. Dei figli di Sefatia, Zebadia, figlio di Michele, e con lui 80 maschi. Dei figli di Joab, Obadia, figlio di Jechiel, e con lui 218 maschi. Dei figli di Bani, Selomit, figlio di Josifia, e con lui 160 maschi. Dei figli di Bebai, Zaccaria, figlio di Bebai, e con lui 28 maschi. Dei figli di Azgad, Giovanni, figlio di Accatan, e con lui 110 maschi. Dei figli di Adonicam, gli ultimi, di cui ecco i nomi, Elifelet, Ieiel e Semaia, e con loro 60 maschi. Dei figli di Bigvai, Utai, figlio di Zaccur, e con lui 70 maschi. Io li radunai presso il fiume che scorre verso Ava, e là rimanemmo accampati per 3 giorni. Passai in rassegna il popolo e i sacerdoti, e non vi trovai nessuno dei figli di Levi. Allora feci venire i capi Eliezer, Ariel, Semaia, ed Elnatan, Yarib, Natan, Zaccaria, Mesullam, e gli istruttori Ioiarib ed Elnatan, e li mandai da Iddo, il capo della borgata di Casifia. Io misi sulle loro labbra le parole da dire a Iddo e ai suoi fratelli oblati nella borgata di Casifia, che ci mandassero, cioè, degli inservienti per la casa del nostro Dio. Poiché la mano benevola del nostro Dio era sopra di noi, ci inviarono un uomo prudente, uno dei figli di Macli, figlio di Levi, figlio di Israele, Serebia, con i suoi 18 figli e fratelli, e Casabia, e con lui Isaia dei figli di Merari, e i loro fratelli e figli, in numero di 20. Degli oblati, che Davide e i capi avevano dato in servizio ai Leviti, 220. Tutti furono registrati con i loro nomi. Là, presso il fiume Ava, io bandii un digiuno, affinché ci umiliassimo davanti al nostro Dio, per impetrare un viaggio felice per noi, per i nostri figli e per tutti i nostri beni. Avevo avuto vergogna, infatti, di chiedere al re una scorta armata e cavalieri che ci difendessero dal nemico lungo il cammino. Anzi, avevamo detto così al re: «La mano del nostro Dio è su coloro che lo cercano per il loro bene, e invece la sua potenza e la sua collera su quanti lo abbandonano». Digiunammo dunque e invocammo il nostro Dio per questo motivo, ed egli ci esaudì. Quindi scelsi 12 tra i capi dei sacerdoti, e cioè Serebia, Casabia e con essi 10 dei loro fratelli, e pesai loro l'argento, l'oro e gli utensili, ossia l'offerta che il re, i suoi consiglieri, i suoi capi e tutti gli israeliti là dimoranti avevano prelevato per la casa del nostro Dio. Nelle loro mani pesai 650 talenti d'argento, 100 utensili d'argento da 2 talenti, 100 talenti d'oro, 20 coppe d'oro da 1000 darici e 2 utensili di rame splendente, preziosi come l'oro. Poi dissi loro: «Voi siete sacri al Signore, anche gli utensili sono sacri. L'argento e l'oro sono offerta volontaria al Signore, Dio dei nostri padri. Vigilate e custoditeli fino a quando li peserete davanti ai capi dei sacerdoti e dei leviti e ai capi famiglia di Israele a Gerusalemme, nelle camere della casa del Signore. Allora i sacerdoti e i leviti presero in consegna già pesati l'argento, l'oro e gli utensili per portarli a Gerusalemme, nella casa del nostro Dio. Partimmo dal fiume Ava il 12 del primo mese, incamminandoci verso Gerusalemme. La mano del nostro Dio fu sopra di noi e ci liberò lungo il cammino dalla violenza del nemico e del predone. Giungemmo a Gerusalemme e riposammo qui 3 giorni. Il 4º giorno vennero pesati l'argento, l'oro e gli utensili nella casa del nostro Dio, nelle mani del sacerdote Meremot, figlio di Uria. Con lui v'era Eleazaro, figlio di Pincas, assieme a Iosabad, figlio di Giosuè, e Noadia, figlio di Binnui, leviti. Si computò numero e peso di tutto e fu registrato il peso totale. In quel tempo coloro che erano venuti dall'esilio, i deportati, offrirono olocausti al Dio d'Israele, 12 tori per l'intero Israele, 96 montoni, 77 agnelli e 12 capri per il peccato, il tutto in olocausto al Signore. Poi consegnarono i decreti del re ai satrapi reali e ai governatori dell'oltrefiume, e questi aiutarono il popolo e la casa di Dio.